lo scheletro di Dio. Era una notte di luna spenta, vide lo scheletro di Dio. Almeno lui così racconta. Sul ciglio della quarta strada, tra i bordelli di vetro e la musica nera, con una bottiglia di whisky vuota e un passaporto falso per scappare nel Nevada. Ma nessuno piangeva, dico io, nessuno piangeva. No, non ti credo, non ti credo, questa è solo una storia. Dice lui, ragazzo, stupido ragazzo, credimi è così. Io morì a New Orleans. Trovò il cadavere di Dio, era coperto dalla tempesta. Vide il cadavere di Dio, veniva inghiottito dalla tempesta. Aveva una giacca nera e una pallottola nel cuore. Portava una vecchia cintura e una camicia bianca di cotone. Ma nessuno gridava, dico io, nessuno gridava. No, non ti credo, non ti credo, guarda, hai già cambiato la storia. Dice lui, ragazzo, stupido ragazzo, guarda che è così. Dio morì a New Orleans. Lapide di Dio era nascosta dall'erba alta. Vide la lapide di Dio, veniva strozzata dall'erba alta. C'erano solo uccelli neri a benedire la terra. Erano morti tutti i fiori, non si vedevano dai tempi della guerra. Nessuno pregava, dico io, nessuno pregava. No, non ti credo, non ti credo, per me tu ti stai inventando una storia. Dice lui, ragazzo, stupido ragazzo,